Io in realtà introduco solo gli ospiti in ordine alfabetico, ma poi l'ordine sarà diverso. In cui, però anche per dire, no, anzi non li introduco in ordine alfabetico, li introduco in ordine di serata, di apparizione, di intervento, per dare anche un po' un senso a questo incontro, cioè per spiegarvi il senso che abbiamo immaginato noi. Allora, per prima abbiamo deciso di far parlare Lia Trogel, che è lei che vedete in mezzo, vestita di rosso, che è la direttrice di Fondazione Impact Housing, alla quale io sono arrivata in realtà passando da Homers, per cui credo di aver capito che è una specie di spin-off di Homers che si occupa appunto di co-housing in Italia. È fondatrice ed ex presidente di Housing Lab, Collaborative Innovation for Housing, e soprattutto è autrice di questo libro abbastanza, come dire, fondamentale, mi viene da dire, su questo tema in questo momento, che si intitola Co-housing, l'arte di vivere insieme, principi, esperienze e numeri dell'abitare collaborativo, di Altra Economia del 2018. Lei l'ha anche portato. E quindi chiederò a Liat di aiutarci, diciamo, a costruire un po' un panorama, un quadro sul tema dell'abitare collaborativo in Italia, per capire dove siamo. E onestamente credo, un po' spoiler, però non siamo in una bellissima posizione in Italia su questa cosa, ma siamo qui per questo. Poi chiederò a Cristian Zanelli, che non è importante che vi dica qual è perché è l'unico maschio che c'è qui sopra, che è vicepresidente della società cooperativa Abicittà, l'ho detto giusto perché io sono, sì, nonché responsabile del progetto territoriale BIG, che forse ne avete sentito parlare, che è il Borgo Intergenerazionale Greco, che è un progetto di abitare collettivo, collaborativo, ma lasceremo dire a lui più precisamente di cosa si tratta, ma soprattutto è un progetto sperimentale intergenerazionale. Questo a noi solletica, diciamo, molto l'interesse, perché mette in scena, diciamo, molte variabili, molte questioni diverse, mette appunto sul piatto la possibilità di condividere bisogni e forse anche di mettere in scena, no, la possibilità di un mutuo aiuto nella condizione abitativa. E poi faremo concludere Giulia Carones, che è un'antropologa qualitativa ed etnografica impegnata nei processi partecipativi, che collabora con ID22, Institute for Creative Sustainability a Berlino. E l'abbiamo invitata non solo per raccontarci la sua collaborazione con la realtà di ID22, ma anche che appunto è una realtà che lavora all'interno delle nuove realizzazioni, diciamo, di progetti di abitare collaborativo, ma anche per raccontarci più in particolare di un progetto che, al quale ci siamo particolarmente appassionati io, Azzurra, che è questo progetto di abitare collaborativo sul fiume Spreefeld, che credo che sia uno dei progetti forse più riusciti nell'ambito in questo momento di cui stiamo parlando. Quindi passerei la parola a Liat. Qui ci sono le slide, forse mettiamo in mezzo il computer. Grazie. Grazie mille. Sì, così comodo, così vedo anche le mie slide direttamente. Grazie dell'invito, sono felicissima di essere qui e buonasera a tutti. Ho le slide, ma magari inizio a dire una parola fuori slide, così giusto per non stare alle regole. Questa faccenda dell'abitare delle donne è un po' alla base del co-housing, se uno lo va a studiare proprio storicamente, perché quando si parla della Svezia, dove i numeri dei co-housing sono anche più rilevanti, insomma un'esperienza consolidata, gli inizi spesso riportano al Alva Myrdal, premio Nobel, che ha, c'è questo racconto che io trovo bellissimo, che guardando un condominio con tutti gli appartamenti uno di fianco all'altro, dice: in questo istante, in questo esatto momento, tutte le donne entrano a casa dopo una giornata di lavoro, perché in Svezia le donne iniziano a lavorare presto, sono 1930, tutte queste donne si mettono a cucinare la cena per i figli. Tutte fanno le stesse polpette svedesi, perché è quello che mangiano, E è scritto così proprio. E nel frattempo i figli si devono arrangiare. E dice, non è possibile che non ci sia una soluzione collettiva. Cioè, quando tutte le persone, uno di fianco all'altra, fanno esattamente la stessa cosa, serve, chiama una soluzione collettiva. E lei, sociologa, assieme a degli architetti, cominciano a pensare come la casa può dar risposta a questo. E creano quello che viene chiamato la cucina centrale, per cui degli edifici dove da una cucina al piano terra arrivano i pasti direttamente in casa con dei piccoli ascensorini. C'è un'immagine magnifica di questo. Fallimento completo questo progetto, per diverse ragioni anche interessanti, però poi in Svezia cosa succede? Che da un servizio completo diventa un sistema di autogestione, cioè questa faccenda dei pasti viene risolta attraverso la creazione di comunità e dei turni molto precisi e ordinati e responsabili, come sanno fare gli svedesi. Per cui è molto pertinente parlare di abitare collaborativo e di donne, e credo che appunto in Italia, che siamo un po' indietro su alcune faccende, forse ci stiamo arrivando, forse no, non lo so, si vedrà. E per cui appunto ho voluto intitolare questa piccola introduzione come i co-housing, che diventano hub urbani di benessere, per cui dove la cura è veramente al centro. E vi parlerò sia di alcuni dati dei co-housing, dell'abitare collaborativo in Italia oggi e come già dimostra, no, di essere centro di cura. E poi ho pensato di portare degli esempi di come si sono comportati gli abitanti nell'abitare collaborativo durante la pandemia e durante il lockdown, perché credo sia stato un momento molto significativo del comportamento diverso che uno può avere se ha le condizioni, se già vive in una certa maniera. Per cui la presentazione è divisa in questo modo e poi vediamo. Porto due cappelli, come diceva prima Florenzia, per cui da una parte la fondazione Impact Housing, che prova veramente a esplorare tutti gli impatti positivi che può avere la casa, impatti economici, ambientali e sociali, e come le collaborazioni tra il pubblico e il privato possono in realtà aumentare la creazione di queste abitazioni, e dall'altra parte Housing Lab, che dal 2014 esplora esattamente il tema dell'abitare collaborativo, per cui insomma anche ho due vite, o più vite anche di così, ma va bene. E aggiungo anche così, sempre sul lato personale, che quando io ho iniziato a occuparmi di housing a Berlino con Michael Lafond, che è il fondatore di D22, per cui è un piacere anche rincontrare Giulia qua. E poi da Berlino stavo tornando a Milano, avevo una bambina piccola e abbiamo deciso di prendere una casa in cooperativa, era un edificio di 100 appartamenti, e per me quel terrore di arrivare, essere un po', cioè una persona, una madre con una bambina, poi sono diventate tre, e in un edificio di 100 persone che non avrei conosciuto, a me ha terrorizzato. E lì su Milano e su casa mia ho portato anche un'iniziativa di creazione di comunità, ed in effetti è stato fondamentale. Per cui insomma è un pezzo professionale, un pezzo personale che si incontrano. Il festival, che si chiama Cara Casa, affronta appunto anche il tema dell'emergenza abitativa e della povertà, no? Perché poi la povertà deriva da diversi fattori e si presenta in diversi modi, per cui non è solo una povertà economica che ci interessa quando parliamo di casa. Povertà economica è ovviamente importante, ma ad esempio quando si parla di alcune città come Milano o Bologna, dove i prezzi sono alti, il fatto che uno è povero può anche derivare dal fatto che la casa costa tanto, no? Molto rispetto allo stipendio. Però abbiamo anche una povertà energetica, per dirne una, e anche una povertà relazionale, per cui le persone non trovano più una rete di supporto, una rete di sostegno, no? E ho voluto portare questo per dire che la casa può, forse deve, prendere in considerazione queste forme di fragilità o di fragilità potenziale, perché sempre oggi, se guardiamo le città dove c'è una crisi abitativa, il potenziale povero è un nucleo che tendenzialmente funziona abbastanza bene, no? Dove la coppia lavora e basta che uno perde il lavoro anche in modo momentaneo e potrebbe rimanere fuori casa, no? Per cui è importante, insomma, pensare a tutto anche quando parliamo di abitare collaborativo. Si diceva prima con Giulia che magari parliamo anche di fasce economiche un po' alte, però se parliamo di cura, se parliamo di inclusione, è importante tenerlo in considerazione, anche perché la casa davvero può essere un centro, un punto di partenza per tantissime altre altri punti di benessere. Per cui c'è un metodo che serve per risolvere il tema delle persone senza fissa dimora, si chiama Housing First, prima la casa in italiano, e dice innanzitutto la persona deve avere la stabilità della casa. Dopo ci si può occupare del lavoro, della salute mentale, dell'integrazione, no? Però ha bisogno della casa, e dunque la casa come punto di partenza, e questo in generale, al di là che sia collaborativa o no. L'abitare collaborativo, per quel fatto che si basa sulle relazioni tra persone che vivono uno vicino all'altro, e questo anche sembra una banalità, però serve dirlo, è più facile farsi aiutare o farsi curare da una persona che sta vicina fisicamente, ok? Posso avere l'amico migliore del mondo, ma basta che abiti nell'altra parte della città ed è molto più difficile dal prestami il trapano a mi serve lo zucchero a delle cose più gravi, ok? A me purtroppo è successo di essermi caduta e rotto un braccio, sono i vicini di casa che mi sono venuti ad aiutare, perché erano vicini, semplicemente. Per cui, se la casa è costruita in modo da favorire le relazioni tra le persone, c'è anche molto più probabilità di cura, ok, tra queste persone. Con Housing Lab, nel 2017, abbiamo voluto fare una mappatura non solo dei co-housing, scritto co-housing è sbagliato, dell'abitare collaborativo in Italia, mi spiego. Il co-housing è difficile da definire, ci sono definizioni, tutti ridono perché chi se ne occupa sa le fatiche incredibili, però normalmente il co-housing è definito come abitazioni per i nuclei, abitazioni autonomi che poi vanno a unirsi a degli spazi comuni ed alle attività della comunità. Poi appunto non ne parliamo perché se no non ne usciamo più. Noi quando abbiamo mappato le abitazioni collaborative abbiamo pensato a tre criteri e abbiamo mappato situazioni che rispondevano a due di tre criteri. Il primo è la coprogettazione, per cui se nella fase di pianificazione della casa gli abitanti sono coinvolti, tutta o parte, però il coinvolgimento prima. Due, la presenza di spazi condivisi, spazi comuni. E tre, la presenza di attività autogestite dalla comunità in modo costante. Per cui se voi pensate, combinate due alla volta, funziona che comunque insomma si riesce a chiamare abitare collaborativo. Ad esempio, se abbiamo pianificato tutta la casa insieme e poi quando ci viviamo abbiamo tante attività, il gruppo d'acquisto solidale, e facciamo le cene, facciamo le feste, ma non abbiamo uno spazio collettivo, comunque l'abitare è un abitare collaborativo. Per cui abbiamo mappato chi rispondeva a due di tre criteri e ne abbiamo mappato una quarantina su tutta l'Italia. Ecco perché non è che siamo messi benissimo, di cui abbiamo definito un po' più di una ventina co-housing, rispondevano a tutte e tre i criteri. E abbiamo assieme a Homers rifatto la parte della mappatura un paio di anni fa e non è cambiato niente. Per cui a livello di numeri alcuni progetti che erano mappati nel 2017 non sono riusciti a concludersi, altri sono nati, però diciamo che non è che c'è una grande spinta. Ecco. E, però, ottimismo, esatto, ci siamo detti di che saremo ottimisti. I dati, la mappatura del 2017 andava veramente nel dettaglio a vedere chi vive in queste case, che tipo di nuclei, cosa fanno, cosa condividono, eccetera. Ho estratto alcuni di questi dati, sono nel libro. Ho estratto alcuni di questi dati che sono, secondo me, un po' più legati alla cura in senso ampio. Allora, innanzitutto, cosa si condivide a livello di spazio? Di 40, circa 40, erano un po' di più, abitazioni, cosa c'è? La sala multiusi, vabbè, la famosa, che è dove si fanno feste, corsi e quant'altro. La lavanderia. Considerate che in Italia le lavanderie comuni non sono per niente comuni, no? Per cui se uno facesse un attimo la percentuale di quante case hanno la lavanderia comune su tutte, non arriverebbe mai a una percentuale del genere che è più del 50%. E la lavanderia comune, oltre a essere davvero un aspetto di cura, no? Per cui cura delle cose, ma che diventa collettiva, condivisa, spesso in queste case diventa la parte più sociale della casa, la lavanderia. Parco e giardino, per cui il rapporto con l'aperto, i spazi fai da te che a noi hanno abbastanza sorpreso, un orto, foresteria, sala bimbi e così via. Per cui potete vedere come lo spazio stesso permette alle persone di condividere con più facilità. Ok? Tra l'altro sala bimbi 11, uno potrebbe dire sulla cura dei bambini, la famiglia, ma spesso la sala multiuso in realtà fa un po' lo stesso tipo di lavoro. Poi quale attività? Per cui al di là degli spazi, cosa fanno insieme le persone che vivono in abitare collaborativo? Gruppo d'acquisto solidale, comprare verdura, frutta, carne, formaggi, quello che è, il wifi condominiale, che comunque decidere insieme tutti di avere la stessa connessione, anche questo un po' ci ha stupiti, ma è stata una bella scoperta. Banche del tempo, per cui dove veramente uno offre del proprio tempo per aiutare gli altri, laboratori artistico-artigianali e così via. Per cui ci sono anche tante attività. Non sono tanti, ma di nuovo, se uno guarda la percentuale, sì, babysitter, badante, qualcuno addirittura condivide il denaro, per cui ha un conto corrente, condivide, che magari è di tutto e magari è di parte, però che riesce una gestione economica, cioè permette una gestione economica un po' diversa. Pratiche di mutuo aiuto, per cui abbiamo proprio chiesto se avvengono. Prestito attrezzi strumenti, facilissimo, no? Per appunto i vicini di casa. Commissioni, già che vai al supermercato mi compri qualcosa, eccetera. Accompagnamento bambini a scuola. Tanta roba, cioè nel senso che chi lo fa tutti i giorni, magari per più figli, si rende conto di quanto questo sia importante, no? E sembra una cavolata, ma a livello di tempo e di gestione e di equilibrio famiglia-lavoro, questo è fondamentale, così come appunto babysitter o addirittura anche aiuti economici. Chi non poteva ancora rispondere erano i progetti che erano ancora in pianificazione, per cui non riuscivano ancora a dare risposte. Molti, 82,5% delle abitazioni collaborative avevano o hanno anche uno spazio che è aperto al pubblico. Per cui lì la cura non solo degli abitanti all'interno del condominio, ma anche rispetto al quartiere, rispetto alla città. Per cui io apro i miei spazi, gli spazi che ho progettato, gli spazi che uso, gli spazi che sono miei e dei miei vicini, al pubblico. Che cos'è che apro? La sala multiuso, per cui la sala famosa, che uno potrebbe anche vedere come il salotto di casa propria, invece spesso e volentieri è aperta. Può essere aperta in alcuni orari, può essere aperta su prenotazioni, però è aperta. Il giardino e il parco, per cui quella dimensione del verde, e a volte anche l'orto o la sala bimbi. Alcuni, non tantissimi, però alcuni di queste abitazioni hanno anche spazi commerciali, per cui nell'arrivare in un quartiere, nell'arrivare in un posto, decidono di aprirsi non tanto come spazio pubblico aperto, ma come attività commerciali. Bar, ristorante, centro culturali, negozi diversi, laboratorio o studi professionali. Questo era un altro dato che a noi ha stupito abbastanza, perché più del 50% delle abitazioni avevano almeno una stanza, un posto per ospitare e includere persone con fragilità. Per cui grande attenzione, anche perché non ho portato questo dato, ma la maggior parte di queste iniziative sono private, per cui sono nuclei di persone private che decidono insieme di crearsi la propria casa. Non c'è la mano del pubblico che dice e dunque tu poi devi dare spazio a persone con fragilità. È una decisione autonoma. È molto molto interessante vedere anche questo dato. Abbiamo chiesto quali sono, per cui abbiamo visto anche qui una diversità in realtà, sia di persone che vivono normalmente all'interno e che sono diventati parte del progetto dalla fase progettuale, che a persone che vengono ospitate in modo temporaneo, magari in collaborazione con la pubblica amministrazione, magari in collaborazione con gli enti no profit. Eccolo, cosa è successo durante il lockdown? Per cui, visto i numeri, arrivo alle storie. Green Opificio in realtà è un progetto che conosco abbastanza bene, perché li abbiamo anche accompagnati per quasi un anno nell'ingresso a casa, alla comunità di abitanti, e è un edificio di circa 70 appartamenti con degli spazi comuni, hanno una palestra, una sala multiuso, una sala bimbi, e quando è arrivato il lockdown hanno chiuso le sale perché dovevano avere il controllo della situazione, non riuscivano, e dunque hanno detto non sappiamo come fare, le sale le chiudiamo. E dunque poi si è creata molta connettività attraverso loro gruppi WhatsApp, blog e così via, per cui si sono sentiti molto e sono riusciti, come dire, a darsi un po' di conforto anche attraverso questi mezzi. E poi nella fase 2, diciamo, dove c'era un po' più di apertura, hanno provato a utilizzare gli spazi all'aperto, e con un'associazione locale, in questo caso il Nuovo Armenia ad Ergano, hanno creato una proiezione di film nel cortile ed era aperto anche al quartiere, per cui non si poteva andare al cinema, il cinema era chiuso, e questo era un momento, no, di condivisione all'aperto, appunto, neanche solo per loro, in collaborazione con un ente locale. Smart Lainate, un progetto a Lainate, giusto appunto, anche lì una centinaia di appartamenti, anche lì hanno chiuso gli spazi condivisi durante il lockdown. Però cosa è successo? Loro avevano già un gruppo d'acquisto solidale abbastanza forte e durante il lockdown l'hanno rinforzato ancora di più, andando ad aiutare quei produttori locali che in quel periodo non riuscivano a campare, per cui è stato anche un aiuto da parte degli abitanti rispetto al commercio locale, piccolo e locale. Nella fase 2 anche loro, quando si riusciva a fare qualcosa in più, hanno creato una specie di scuola materna sempre negli spazi all'aperto, sempre facendo un po' a turni tra le persone, e anche loro hanno utilizzato il digitale per mantenere i contatti. Base Gaia a Milano, un co-housing abbastanza recente, nel senso che loro hanno avuto la fortuna, la sfortuna di entrare in casa esattamente prima del lockdown. Per cui hanno lavorato 10 anni per arrivare a questo progetto di co-housing, e anche loro li conosco piuttosto bene. E loro invece sono 10 nuclei, per cui è un co-housing piccolo. 10 nuclei quando sono entrati, grande felicità, finalmente il trasferimento, lockdown, chiusura, cosa fare? Decidono di comportarsi come una grande famiglia. Per cui loro in realtà non chiudono gli spazi, anzi decidono proprio che la chiusura è la chiusura del condominio, qualcuno deve uscire per andare al lavoro e sviluppano, diciamo, delle regole anche di buon senso e di responsabilità rispetto a chi esce, entra, chi sta male e così via. Per cui diventa un esperimento molto interessante, perché condividere il lockdown, io ho avuto la fortuna di condividerlo con un altro nucleo di vicini di ballatoio proprio, e nel loro caso 10, per cui in realtà anche poco sentito, no? come chiusura. Hanno degli spazi molto belli, come un giardino, una terrazza grande, degli spazi interni, per cui anche questi erano vissuti molto molto bene durante quel periodo. Questo invece è un progetto a Torino, delle coabitazioni solidali, e lì, diciamo, un progetto di coabitazione tra giovani e anziani. Anzi, non l'ho detto giusto, sono i giovani che a fronte di un affitto calmierato offrono delle attività, delle prestazioni rispetto alla comunità intorno, per cui un modo di attivare le relazioni. E loro, ad esempio, per le persone anziane erano molto importanti, perché spesso magari portavano la spesa. E ci hanno raccontato che portare la spesa era anche una scusa per fermarsi un attimo, sempre a distanza di sicurezza, e fare due chiacchiere, e dunque non essere soli. Chiudo dicendo che piccoli numeri, molto molto piccoli. Quando abbiamo rinnovato la mappatura, abbiamo detto che siamo 0,0003% della popolazione italiana che vive in co-housing, ok? Per cui siamo veramente indietro. Però da queste abitazioni si può imparare molto, senso che sono laboratori di innovazione. Il mercato immobiliare è vecchio e ogni tanto, per fortuna, sentiamo di qualche innovazione bella. Questi sono esattamente gli esempi da guardare, e se da questi e da queste iniziative si riesce anche a poi non scalare, nel senso che non tutto diventerà co-housing, ma le pratiche devono scalare, no? Devono infiltrarsi un po' anche nelle abitazioni tradizionali, allora diventa interessante. E io credo che non è solo un'innovazione del mercato immobiliare, è proprio un'innovazione sociale, per cui che nasce dalle persone e per le persone. Ecco, poi spero che cresceranno, per cui spero che non rimarranno questi numeri piccoli, però intanto guardiamoli bene e impariamo qualcosa. Vi ringrazio. Grazie, era un bellissimo intervento, secondo me è molto utile a inquadrare un po', diciamo, una situazione e un tema, no? Mi sono venute in mente tantissime suggestioni. Magari le dico ora, perché poi anche voi, se avete delle domande su questo intervento, secondo me va bene, anche se rompiamo un po' l'ordine gerarchico, perché poi alla fine, solo alla fine potete fare domande. Da una parte, la prima cosa che ho pensato rispetto appunto a questi numeri molto piccolini è che c'è una grossa difficoltà in Italia a realizzare questo tipo di situazioni, di iniziative, nel senso che se in Svizzera, diciamo, realizzare una casa in cooperativa è una cosa molto consolidata nel sistema dal punto di vista amministrativo, burocratico, in Italia non è esattamente così, per cui chi ci riesce ci ha davvero creduto moltissimo, diciamo. E quindi magari su questo poi io vi chiederei se avete qualcosa da dire in merito, nel senso che bisognerebbe forse tracciare, no, un po' una traiettoria, una strada da percorrere affinché si sciolga anche un po' questa fatica che altrimenti in presenza della quale diventa un po' difficile, diciamo, realizzare. Perché poi quando si parla di abitare collettivo collaborativo è sempre affascinante, cioè le persone con cui ne parlo sono sempre molto persuase, no? Però poi l'idea è talmente complessa da realizzare che nei fatti poi ti areni e dici vabbè, aspetta, compro quell'appartamento che è in vendita e l'ho risolta. Altra cosa interessante, vabbè, da una parte mi è venuto in mente che rispetto alla questione del lockdown, noi avevamo visitato i co-housing a Vienna che erano stati realizzati proprio su iniziativa delle donne di un'associazione che si chiama Rosa, di donne che volevano appunto vivere in co-housing, in abitare collaborativo, ma non che gli uomini fossero esclusi, ma erano proprio iniziative che partivano dalle donne e alle quali venivano fatti i contratti per le case. L'abbiamo visitata appena dopo la pandemia e effettivamente c'era stato un enorme svilimento in realtà purtroppo delle attività collettive, anche perché molto spesso sono donne abbastanza âgée, diciamo, e quindi erano anche molto preoccupate di contagiarsi, quindi spesso si sono proprio rinchiuse nelle proprie case e non hanno più recuperato in realtà la dinamicità, le attività che venivano fatte in precedenza. Questo era un po' un peccato perché poi si innescano anche tutta una serie di altri meccanismi anche di mercato che un po' le hanno tagliate fuori. Ma l'altra cosa che è a sua volta connessa è il fatto che spesso diciamo che l'abitare collaborativo può essere una soluzione interessante soprattutto per le persone più anziane, che, perché un dato interessante in Italia è che, cioè interessante e anche drammatico allo stesso tempo viene da dire, è che un numero altissimo di famiglie sono composte da persone singole, sono monocomponente, no? E io un po' ingenuamente ho sempre pensato che fossimo noi, no? La nostra generazione scappati di casa, che non si sono ancora sposati, che si sono laureati, però che vivono da soli. Invece no, nel senso che siamo una piccolissima percentuale e in realtà sono soprattutto anziani che vivono da soli. Ed è una condizione che non sempre è desiderata, perché nei fatti, come dire, quando sei anziano hai anche molto più bisogno di avere qualcuno che ti supporti in questa vita quotidiana. E in realtà la prospettiva del nostro paese è quella, nel senso che l'Italia è un paese estremamente vecchio. E quindi, per certi versi, mi viene da dire che forse, diciamo, sciogliere appunto le fatiche amministrativo-burocratiche di realizzazione di questo tipo di possibilità, di realtà, oggi più che mai in Italia è importante, perché questa è una situazione che a tendere sarà sempre più diffusa. E infatti noi con i nostri amici molto spesso ragioniamo su come risolvere la chiusa della nostra vita dicendo andiamo a vivere tutti insieme in una casa in Portogallo. Però il Portogallo, scusate, Portogallo sta nel desiderato ovviamente. Però insomma tante cose, non ho domande per adesso, però poi dopo vi chiederei magari alla fine se avete più informazioni rispetto a queste difficoltà. Passerei la parola per parlare appunto del progetto di Big, che mi sembra una iniziativa molto interessante, e grazie. Wow, tantissimi stimoli, e quindi adesso farò un casino micidiale perché voglio dire tante cose, c'ho la presentazione, vabbè. Ma tu non hai fatto finta. Allora, no, Big è un progetto, è un servizio, ma soprattutto è un'esperienza in corso. Abbiamo solo neanche 3 anni, quindi ci siamo trasferiti a Big alla fine del 2020 e anche noi, tac, subito dopo abbiamo avuto il lockdown. Quindi soprattutto è un qualcosa che stiamo ancora imparando a conoscere, e gli abitanti di Big, di cui qui abbiamo una rappresentante super, Irene, che poi le chiedo anche un aiuto, loro ci stanno anche dicendo attenzione, perché noi di Abicità siamo i gestori sociali, ma Big sono le persone che lo abitano, e quindi se Big sono le persone che lo abitano stiamo continuando a imparare e vedere un po' come funziona questa sperimentazione. Big sta per Borgo Intergenerazionale Greco. Ve lo racconto con questa chiave di lettura. Sono diventati finalmente 1, 2, 3, 4 e 5 le chiavi di lettura, perché è un'esperienza che parte da lontano. Cerco di farla breve perché siamo molto più sull'abitare oggi, però le condizioni che permettono un progetto come Big non sono da sottovalutare, perché siamo stati anche molto fortunati. Non lo dico perché ci sono qua i progettisti che mi hanno fatto la sorpresa di essere presenti, ma perché è stato una gestazione e una realizzazione molto lunga. Siamo nel quartiere di Greco, non so se lo conoscete, è una specie di piccola isola nella città di Milano, e l'isola è definita in questo senso. Tutte quelle righe che vedete non sono fatte a caso, sono tracciati del treno, sono binari, e sotto i binari ci sono delle mega costruzioni arcate alte 7 metri. Ogni sguardo a Greco, insomma, ci passa il treno, ok? Io credo anche che, siccome Adriano Celentano è di quelle parti lì e lui faceva quelle pause del tipo, era perché passava il treno, secondo me. Ogni volta che cominci un discorso greco ti devi fermare a un certo punto, perché o le campane o il treno ti interrompono. Detto questo, è rimasto proprio un paese, e all'interno di questo paese quella fetta di giallo un po' più scura è un piano integrato di intervento, quindi un intervento urbanistico. Prima cercavamo di vedere da quanto tempo è attivo questo progetto. Beh, è dal 2005 che si parla di questo progetto e siamo ancora a vederne gli ultimi passi, quindi immaginate, siamo attorno ai 20 anni, ecco, di realizzazione. All'interno di questo, la parte rossa è una parte che è diventata sociale, ma che, per farla un po' breve, all'inizio doveva essere uno studentato, quindi uno studentato ricavato con 25 appartamenti, micro appartamenti, all'interno di una cascina storica, peraltro con un intervento anche di restauro, con la sovrintendenza di mezzo, quindi se volete, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, quindi un intervento in cui si realizzavano delle case, aveva poi come ritorno per l'amministrazione pubblica una serie di strutture, fra cui anche questo studentato, che sarebbe rimasto in gestione del privato per 20 anni e dopo ritornato, riqualificato e attivo all'amministrazione pubblica. La faccio molto breve, ma noi abbiamo conosciuto per vie traverse che coinvolgono anche lo studio di architettura questa esperienza nel 2015 in pieno Expo, e da lì abbiamo iniziato a pensare di essere noi gestori non tanto di uno studentato solidale, noi intendo AB Città, che è una cooperativa sociale che esiste dal 98 ma che non ha mai avuto un servizio suo. Abbiamo immaginato un servizio che potesse essere nelle nostre corde e quindi abbiamo proposto l'idea, presa dalla Germania, case multigenerazionali tedesche, di trasformare quei 25 alloggi previsti come studentato in una residenza un po' composita che potesse offrire un alloggio a diverse fasce di età, con l'idea di impegnarci in prima persona come gestori, come facilitatori di relazioni sul campo, e quindi immaginare di mettere anche la nostra sede di cooperativa in quel posto. Tutto questo con un bel progetto dietro, e con tutti quelli che vedono questo rendering dicono ah, è il rendering, poi vedono la realtà, dicono la realtà che si trasforma, dicono beh, il rendering non bleffava, e quando le persone entrano in questo spazio dicono non sembra di essere a Milano, che non so se è una bella cosa o una brutta cosa, perché noi ci sentiamo comunque a Milano, no? Però dice Luca su Milano. Però detto questo, quindi le forme aiutano, anche la qualità architettonica aiuta, però ecco, le condizioni che hanno permesso di inserire questo progetto, se volete, sperimentale, non sono state facili e hanno coinvolto appunto l'amministrazione pubblica, il soggetto privato, il costruttore, che se volete ha dato molta fiducia alla cooperativa sociale pur partendo da reciproci pregiudizi, perché ci sono, e l'amministrazione pubblica con noi terzo settore e privato, insomma, abbiamo rivisto la convenzione che era molto inscatolata e partiva da tanti anni prima, rivista per prevedere l'inserimento di un servizio nuovo, un borgo intergenerazionale greco. Ci abbiamo messo tantissimi anni, un anno e mezzo pieno per cambiare questa convenzione, però quella adesso è un punto d'arrivo, nel senso che quando AB Città fra poco meno di 20 anni ridarà la struttura, sarà messa a bando dal Comune di Milano sull'idea del borgo intergenerazionale, sempre che l'esperienza prosegua bene, perché dobbiamo dimostrare che questo modello funziona. In Germania funziona abbastanza, non si sa, dopo ce lo dici, okay. Lo vediamo dopo. Quindi qui è sintetizzato che cos'è Big. Sostanzialmente i 25 alloggi sono stati così divisi: 14 sono destinati a 19 giovani studenti o studentesse o giovani lavoratori e lavoratrici. E giovani in Italia è un concetto che noi non abbiamo, ecco, noi non abbiamo definito, ecco, non abbiamo detto indicativamente 18-35, ma Ok. Dall'altra parte abbiamo invece 5 alloggi per anziani autonomi, quindi in condizioni di autosufficienza. Lo dico perché sembra anche questa una cosa brutta tecnicamente, però in realtà è molto bella, nel senso che l'idea è che questi alloggi non sono degli alloggi protetti in qualche modo, sono alloggi dove la protezione è data dal fatto che è molto facile, anzi è impossibile, non conoscere i vicini di casa. E questa condizione, che non so se è cioè è tradizionale, una volta il borgo era una cascina ed era così, senza bisogno di un soggetto facilitatore. Oggi questa cosa va recuperata ed è una condizione di protezione. Non si spinge ai livelli del co-housing, però ambisce a mutuo aiuto, perché i giovani che stanno da noi pagano da 350 euro a 600 euro, tutto compreso, 350 per la condivisione di una stanza, 600 per avere un alloggio autonomo, tutto compreso, quindi senza spese, le spese ce le sobbarchiamo noi. Questo però a fronte di 10 ore di volontariato al mese che chiediamo ai giovani per fare mutuo aiuto interno alla struttura, quindi quando c'è bisogno ci si aiuta e le occasioni ci sono, oppure volontariato civico con il resto del territorio, su questo poi tornerò. In ultimo, ospitiamo all'interno del progetto anche 6 alloggi che sono a tutti gli effetti un servizio a sé stante, sono alloggi per l'autonomia e sono destinati a genitori singoli con bambini. Al momento sono tutte mamme quelle che abitano da noi, ci è arrivata, è strano, però ci è arrivata anche la richiesta di un papà che è in lista d'attesa in questo momento. Però questo, per fare questo come cooperativa ci siamo anche allargati e abbiamo coinvolto nuovi operatori e abbiamo a tutti gli effetti accreditato questo servizio col Comune di Milano. Gli alloggi che vi dicevo, giovani e anziani, sono ad accesso diretto, il rapporto è fra le persone singole e AB Città. Nell'altro caso invece sono mutuati dal settore sociale del Comune di Milano, che attraverso gli assistenti sociali invia le persone. Tutto è orientato al tema dell'autonomia. Tu dicevi la casa prima vale un po' per tutti e questa cosa noi la vediamo come risolviamo con Big il problema della casa, lavoriamo sulle relazioni e facciamo in modo che le persone che abitino da noi o raggiungano una forma di autonomia per cui poi possono uscire e avere una condizione di vita migliore, e succede ad esempio molte delle nostre mamme, almeno 3 sono già uscite e hanno condizioni di vita per cui in alcuni casi migliori, nel senso hanno avuto una casa popolare e quindi l'assegnazione, dall'altra parte peggiore ma migliore per loro, nel senso che sono tornate in comunità perché c'erano dei problemi che a Big sono emersi e si sono evidenziati, non è che sono nati lì, si sono evidenziati grazie al nostro supporto e quindi adesso in una comunità riescono ad avere un supporto migliore per ripartire con l'autonomia. Dall'altra invece le persone anziane mantengono il più possibile e il più a lungo possibile l'autonomia. Perché un alloggio di piccole dimensioni come sono i nostri, al piano terra, con questo sistema di relazioni attorno, permette di essere autonomi, autosufficienti, ma anche protetti dai vicini. Sto correndo, però questi sono gli alloggi, sono molto belli, qui erano vuoti, ma devo riconoscere allo studio di architettura che la stessa cura, Ticozzi, lo studio Ticozzi, la stessa cura, gli stessi particolari, le stesse finiture degli alloggi, delle case vicine, vendute anche a belle cifre al metro quadro, ecco, li ritroviamo nella nostra struttura e questo non è una cosa da poco, anche dal punto di vista energetico e della cura proprio dei particolari, no? Quindi è bello abitare a Big anche perché ci sono particolari di questo dettaglio. Anche la nostra sede a noi piace tantissimo, quindi. Vabbè, questa è una vecchia foto di quando ancora le persone non c'erano e quindi abbiamo usato delle controfigure, però controfigure locali che adesso seguono il progetto, quindi l'anziano ad esempio è il signor Banfi, è una presenza molto storica del quartiere, gli altri sono grosso modo l'equipe di AB Città Attiva, il finto ortolano sono io e l'ortista è davvero un ortista, quello con la, perché abbiamo anche un orto condiviso. Le generazioni non sono soltanto 3, le generazioni sono tante e potrei stare tanto tempo su questa diapositiva, però vi dico che c'è una forte differenza fra, vabbè, li chiamano boomers e i matures eccetera, però c'è una forte differenza fra chi ha 65 anni e chi ne ha 92. E al momento noi ospitiamo una signora di 65 anni e sua mamma di 92, e stanno in due alloggi distinti, e questo garantisce il fatto che vadano d'accordo. Lo dico con il massimo rispetto, chiaramente. E noi stessi come equipe ci siamo un po' giocati sulle nostre età per essere più vicini alle diverse fasce di età, e anche come equipe, non mi fermo su questa diapositiva che è standard, però ci siamo dovuti interrogare, ci interroghiamo tanto su quali competenze attivare e quali collaborazioni all'interno dell'equipe mettere in campo. Io sono architetto e ho una venerazione totale per le educatrici che lavorano con noi, per noi, perché imparo tantissimo e mi metto in gioco anche con tutto quello che ho imparato in 20 anni di esperienza nel sociale. Però Big è l'occasione in cui tutto quello che ho imparato nei vari territori attorno a Milano, insomma, cerco di metterlo al 100%. Così fanno tutti i miei colleghi nell'equipe. Io ho ancora un pezzettino, poi Irene ti chiedo un aiuto. L'ultimo pezzettino è come siamo arrivati a Greco, ma la devo fare veloce. Noi abbiamo fatto un progetto nel 2018 che ci ha aperto le porte sul fronte del territorio. Nessun progetto sociale funziona come un fortino. Noi lo diciamo da sempre, anche quando facciamo i consulenti. Adesso che siamo gestori lo capiamo ancora di più. Puoi fare al meglio il tuo all'interno, ma se non hai delle relazioni con l'esterno, rischi di essere additato come ecco, va tutto bene lì, ma non si aprono, oppure per funzionare meglio bisogna aprirsi. Noi vogliamo fare volontariato civico, se non avessimo attorno una rete di associazioni non potremmo fare alcuni dei progetti che oggi fanno l'anima di Big. E questo è nato grazie a un progettino che anche qui, grazie alla lungimiranza del costruttore, la Borgo Cascina Conti, abbiamo potuto utilizzare l'area di cantiere per degli usi temporanei, e questo ha aperto le porte nei confronti del quartiere, perché abbiamo colorato delle arcate terribili, abbiamo pulito un'area verde che oggi è un orto condiviso, si affaccia sul Martesana. Prima le persone che ci abitavano di fronte non sapevano che c'era il canale Martesana dal casino che c'era davanti. Oggi invece è un'area molto vissuta. Abbiamo anche per un periodo utilizzato il futuro centro sportivo, che è l'ultimo step di realizzazione del PI, come un campo da calcio, quindi spianato e utilizzato per un certo periodo. Questo è stato Bing, e poi è arrivato Big. Ve l'ho detto, noi ci siamo trasferiti lì alla fine del 2020. Peraltro abbiamo lavorato in smart working tutto il 2020, perché il finanziamento da Fondazione Calibro, che ci ha permesso di contribuire alle spese di ristrutturazione, è arrivato solo alla fine del 2019. All'inizio la startup è stata tutta in smart working. Finalmente nel fine 2020 i primi, vedete anche Irene in alto a sinistra nella foto, si sono trasferiti, e quindi è partito Big. Davvero un progetto che si fonda sulle relazioni ha subito vissuto il lockdown, e i primi 6 abitanti di Big noi pensiamo che si siano conosciuti molto bene forzatamente, però non so, Irene, cosa ci vuoi raccontare? Queste da adesso in poi sono tutte carrellate di foto, quindi volevo chiedere a Irene se volevi dare un po' una tua lettura di che cosa è Big nella tua vita oggi e che cosa è stato in questi ultimi anni. Guest. Sì. Testimonianza diretta, cosa vogliamo di più? Grazie. Allora, intanto vi ringrazio, anche le suggestioni che ho ascoltato finora sono molto interessanti, anche per quello che è il post Big, perché il progetto, forse questo Cristian non l'ha detto, per i giovani e gli studenti è un progetto a termine, per noi è un avviamento all'autonomia, e quindi a un certo punto dovremo essere autonomi e trovare una nuova soluzione abitativa. Io niente, quando sono entrata già cercavo in realtà una realtà di questo tipo, perché intravedevo il fatto che un po' come scusami il nome, Liaz, non mi vedo da sola in un appartamento senza conoscere i vicini, quindi era un po' quello che cercavo, soprattutto avevo investito nel lavoro, quindi mi mancava la soluzione abitativa, avevo voglia di diventare indipendente anche a livello abitativo, e questo è arrivato proprio nel momento giusto, proprio quando lo stavo cercando. È stata un'occasione per me, per cui io avevo la possibilità di un affitto calmierato che mi poteva potevo permettere, che mi ha permesso anche di sviluppare poi a livello lavorativo quelle che erano le mie passioni, i miei obiettivi, e allo stesso tempo, complice anche il lockdown, instaurare delle relazioni molto forti con i vicini. Io non so se avete mai avuto occasione di vivere un'esperienza del genere, ci sono dei particolari, ad esempio, che hanno davvero creato un po' la vicinanza, momenti magari di duro lavoro, si torna a casa invece di essere da soli nella propria casa, si ha la possibilità di uscire col vicino perché non lo devi cercare dall'altra parte di Milano, ma ce l'hai accanto alla porta di casa. O durante l'estate ci siamo organizzati tra noi che rimanevamo magari ad agosto a Milano, per dare supporto, incontrare tutti i giorni la nostra novantenne, per cui la figlia che poteva andare in ferie e non avere il pensiero della mamma a casa da sola che poteva avere bisogno, perché sapeva che c'eravamo noi. Quindi, come dire, e da parte nostra, per noi è stata un'occasione per conoscerla meglio, e questo rapporto intergenerazionale a volte non è scontato, no, anzi non è per niente scontato, perché ci sono modi di vedere le cose molto diverse, però a volte si riesce in qualche modo a trovare una connessione. Per noi in particolare, per me e altri vicini con cui ci siamo trovati particolarmente bene, c'è stata proprio una trasformazione del modo di vedere l'abitare, per cui molti altri magari cercavano semplicemente un affitto calmierato e adesso hanno capito che non si vedono in una situazione differente, e quindi quello che noi stiamo cercando di fare adesso che siamo ormai in uscita è trovare, creare una specie di comitato, stiamo già un po' creando un gruppo. E ci stiamo un po' guardando in giro per provare a riproporre una situazione abitativa di questo tipo. E niente, quindi questa è un po' la mia esperienza, e l'esperienza in realtà anche dei miei vicini, che mi piace, che sono contenta in realtà di poter raccontare dal punto di vista di chi il servizio lo sta vivendo in qualche modo. No, grazie davvero, perché questa cosa, ad esempio, noi non potevamo immaginarcela. Cioè, a un certo punto ci siamo resi conto che, ok, sì, noi sembriamo quelli cattivi, che a un certo punto le persone dovrebbero andare via, no? Perché è comunque un progetto temporaneo, per cui l'autonomia è comunque un obiettivo delle persone. Però effettivamente, se siamo a Milano, andare via è molto difficile. E infatti Liat ti ho contattato anche proprio per parlare di questo argomento e per immaginare delle filiere, per cui uno appunto esce da un'esperienza di questo tipo e non si trova a dover cercare un alloggio a, non so, 6.000 euro al metro quadro, ma magari cerca una situazione per cui, ok, con le spalle un po' più coperte da un'autonomia raggiunta, però continua sulla strada del abitare collaborativo e trovare nuove forme, perché effettivamente il mercato dovrebbe un po' evolvere in questo senso. Qui questa foto per noi è preziosa, l'abbiamo anche nella sede, qua ci siamo proprio tutti, oggi magari sono cambiate alcune mamme, alcune persone, chiaramente la foto si potrebbe fare ogni tot e le persone cambieranno, però vedete, sopra c'è il ballatoio, la parte più antica della cascina abitata, siamo andati tutti lì, sotto ci sono delle foto storiche di chi una volta abitava lì. E questo è un po' il ritorno che si diceva prima, no? E anche il rapporto forte che abbiamo con il quartiere. Niente, sul quartiere, giusto un flash su alcune delle cose che facciamo, molti dei giovani che lavorano con noi prestano delle ore di volontariato anche ad esempio ad un'associazione che si chiama SOS, un'associazione che ha le ambulanze in quartiere, e fanno una raccolta alimentare. Abbiamo anche acquistato un cargo bike con un altro progetto, e questa è una cosa che dall'inizio continuiamo a fare. Abbiamo addirittura dedicato degli spazi garage a costruire una specie di micro supermercato di spesa donata, e insieme alla SOS curiamo questa cosa ormai da tanto tempo. Siamo anche sede di un alveare, e uno dei nostri spazi comuni abbiamo adesso ormai allestito in modo abbastanza solido BiblioBig, che è una biblioteca di condominio aperta al quartiere. Non c'è una biblioteca a Greco, questa biblioteca ha l'ambizione di essere un po' un punto di riferimento, un punto di incontro più che di prestito libri, anche se è riconosciuta dal settore biblioteche del Comune di Milano. E poi tante cose, abbiamo anche una parete di arrampicata che abbiamo costruito grazie a un progetto di crowdfunding che vorremmo al più presto, appena sarà possibile, trasferire sotto le arcate ferroviarie che sono il nostro panorama quotidiano. Queste arcate vorremmo tanto trasformarle, ci impegneremo prossimamente. Abbiamo fatto partire ed è attivo, vi invito ad andare a vedere sul sito, un progetto che si chiama Mubig, che racconta la storia di Big ma anche del quartiere e lo valorizza tantissimo. Ci sono delle cose uniche a Greco che si possono scoprire sul sito, passeggiate, la storia. Abbiamo anche ospitato delle opere di Brera a Big. E in ultimo, uno slancio sulla città. L'anno scorso abbiamo avuto l'occasione di partecipare al progetto Milano e Viva nei quartieri. E l'abbiamo fatto insieme a Triennale Teatro e Fondazione Feltrinelli. Abbiamo visto che la nostra corte si presta benissimo a degli eventi. E abbiamo ospitato eventi di danza, bellissimi, e anche di musica. E questa situazione quest'anno ci spinge a voler tanto riprovare questa strada, perché è un altro modo per inglobare non solo il quartiere ma la città stessa. Poi la particolarità del treno, questo era uno spettacolo di improvvisazione musicale, ha suonato anche il macchinista del treno ed è stato un momento epico, epico. Ultimissima immagine, quest'anno ogni mese vorremmo fare un evento. Il primo evento è stato questo, lei è Giulia, l'altra è Miracle, abbiamo festeggiato 1,91, ok? E vabbè, questa è la classica immagine strappalacrime per chi si occupa di intergeneranza, però è molto vera e autentica. Vi dico soltanto che Giulia, che è una persona che rompe tutti i pregiudizi, perché lei dice basta bambini, ne ho visti tanti nella mia vita, dice che a Big si sta un po' ricredendo perché le piace un sacco guardare i bambini piccoli, e pensava che questa cosa non le sarebbe più ricapitata. Le è ricapitata perché i suoi vicini di casa adesso hanno anche un anno, ok? Niente, questo è Big. Quindi vi aspettiamo. Il nostro cortile non è uno spazio non è uno spazio privato, è uno spazio pubblico. È stato privato in un certo senso fino al dicembre dell'anno scorso, e quando c'era il cantiere era ancora più nostro. Adesso siamo nella condizione in cui è uno spazio pubblico, però chiaramente ospitiamo molto facilmente degli eventi e ci piacerebbe usarlo il più possibile, tant'è che stiamo pensando di fare un patto di collaborazione per la gestione di questa corte, con tutte le difficoltà però del caso, perché è nella corte che l'intergenerazionalità ci sta mettendo a dura prova, perché un conto è viverla da diciottenni, non quelli che abitano da noi ma quelli che vivono in quartiere, un conto è viverla da settantenni, e quindi lì lo scontro è... Però ci siamo messi noi in questa cosa dell'intergenerazionalità e quindi affrontiamo le questioni di giorno in giorno. Due cose, diciamo. Una, posto che ho capito che sia che il concetto di gioventù è soggettivo, però diciamo per temporaneo più o meno cosa si intende come arco temporale, diciamo. E l'altra era capire se un po' quello che dicevo all'inizio, cioè questa questione del lavoro di cura delle mamme, del lavoro di cura nell'esperienza, nella vostra esperienza, notate che in qualche maniera viene affrontato, o che diciamo, per dirla più chiaramente, se le donne in qualche maniera trovano beneficio nel condividere il peso della cura di questi bambini. Allora, mi dispiace non ci siano le mie colleghe che sono molto più brave di me su questo fronte, però allora intanto parto dalla seconda, perché ci sta molto a cuore. Mettere un servizio all'interno di un progetto può essere visto come molto rischioso, tant'è che di solito non si fa. Di solito le comunità o i progetti, i servizi sono monotematici, no? Invece per noi inserire un servizio a tutti gli effetti, che in teoria potrebbe essere anche autonomo a sé stante all'interno di Big, ci dà una doppia valenza. Invece, da una parte è un'occasione per chi abita giovani o anche anziani, per avere un'occasione di interazione con i bambini piccoli e di supporto alle mamme. Questo, insomma, dà un impegno ad alcuni anziani e dà soprattutto ore ai giovani per fare volontariato. Questo libera tempo alle mamme. E io vedo che il servizio di accompagnamento delle mamme funziona, nel senso, le mamme che entrano da noi arrivano, magari, io mi ricordo, una delle mamme che è entrata è uscita dall'ospedale ed è arrivata da noi con la bambina appena nata, perché nel servizio dove stava prima prendevano mamme ma senza i bambini. E quindi l'assegnazione del servizio Big è arrivata mentre era all'ospedale. Quando è arrivata non c'era niente, piano piano la bambina adesso è cresciuta, va all'asilo nido, lei sta facendo diverse scuole, è diventata più brava con l'italiano, probabilmente troverà un lavoro come altre mamme trovano il lavoro. Nel momento in cui il lavoro è impegnativo, sanno che a Big c'è sempre una specie di staffetta, Irene lo sa, per il sabato che c'è il lavoro, chi tiene Emily, chi tiene la piccolina. Ecco, queste cose funzionano, e un po' nell'esempio delle polpette funziona anche con i bambini, in questo caso funziona davvero. E l'altra domanda invece? Fino a quando? Allora, i nostri contratti vanno da 6 mesi a 2 anni, però sono rinnovabili, e stiamo cercando, Irene lo sa, di fare sempre un ragionamento con le persone. Non abbiamo nessuna regola, ma cerchiamo di trovare il buon senso. Allora, ha senso stare ancora un anno? Perché in quest'anno cosa deve succedere? E quindi costruiamola questa autonomia. E soprattutto, ha senso stare a Big? Perché mi impegno a Big a provare questa e quell'altra relazione, non perché costa poco stare a Big. E questo ci è permesso perché Big è piccolo, sono 19 studenti o lavoratori e noi siamo tanti, quindi il rapporto è quasi, insomma, quotidiano. Posso dire una cosa su questo, poi lasciamo Giulia parlare. Sì. E che oltre a essere laboratori, le case sono anche incubatori di co-housing, perché come nella vostra esperienza, che appunto uno quando vive un'esperienza del genere, dopo dice, e ora come vado ad infilare? Non solo il costo, che è ovviamente un problema, sicuramente a Milano, però non voglio isolarmi, no? A questo punto io voglio anche questa stessa socialità. A Bologna, che c'è l'unico co-housing pubblico, proprio pubblico puro, per giovani, che ha un contratto limitato, la stessa cosa, per cui tanti giovani fanno fatica, perché anche a Bologna i prezzi sono molto alti, ma in più dicono no, non vogliamo vivere in modo isolato. Ma è bello anche questo, perché vuol dire che nel vivere l'esperienza che magari hai scelto per caso, ti è capitato, o magari l'hai anche voluta ed è stato un modo per sperimentarla, magari qualcuno esce da lì dicendo mai più, però va bene anche questo, no? Così come se io guardo alle situazioni anche private, i ragazzi che crescono in una situazione di spazi comuni, attività comuni, si abituano ad esempio ad autogestire gli spazi, perché in Italia è vero che l'autogestione non è per niente scontata, cioè di cultura possiamo, ma non è che sia così e basta, si può imparare ad autogestire spazi e attività, e i ragazzi che crescono autogestendo spazi, utilizzando spazi, lo sanno fare alla fine, no? Per cui diventa abbastanza, insomma, incubatori di co-housing. Io in realtà darei la parola a Giulia, poi ho tutta una serie di cose, di osservazioni, esatto, no, non si finisce più. Comunque grazie, è stato veramente molto molto interessante e anche molto particolare come progetto, mi viene da dire. È interessante e sì, esatto, non è proprio un esempio di co-housing tipico, perché no, direi proprio di no, però è... Quindi ecco, passo la parola a Giulia. Eccoci, come stiamo? Ancora abbastanza Ci siamo, siamo pronti per andare a fondare il nostro progetto adesso, quelli che ancora non ce l'hanno. Io sono Giulia Carones, come sono stata già presentata, grazie mille e dell'introduzione, della moderazione e degli interventi, perché sto imparando un sacco di cose e questa è sempre la cosa migliore di quando ci si incontra, scusami. E, come è già stato detto, vivo a Berlino da 5 anni, sono un'antropologa, quindi non troppe domande di architettura. Ho i rendering, no, non è vero, ho i piani, ve li faccio vedere, ma architettura ne parliamo in maniera trasversale, perché quando Florenzia e Margherita mi hanno contattata su questo, per questo panel su, sulla cura all'interno degli spazi abitativi, la cosa che a me è venuta in mente è quella di dire: va bene, scegliamo il progetto di Sprefel perché è quello per cui c'è interesse, ma applichiamo allora la lente della cura, che non è univoca, e quindi è quella la lettura che propongo oggi, una lettura più antropologica, basata sull'esperienza umana del, del fare casa. Una parola sull'Istituto. L'Istituto per la Sostenibilità Creativa è una ONG, siamo un piccolo ma agguerrito team di persone, facciamo ricerca, eventi e collaborazioni, in particolare un festival sull'Housing Experiment Days che l'IAT conosce bene e verrà rilanciato quest'anno. Ci occupiamo di formazione e insegnamento e occasionalmente anche consulenze specifiche per alcuni progetti che vogliono sviluppare una componente di co-housing o, abitare collaborativo su ampia scala. Una slide di contesto. mi rendo conto che il panorama abitativo a Berlino sia radicalmente diverso da quello italiano. Più dell'80% delle persone a Berlino vivono in affitto. Pochissimi, esatto. Quindi si parla di una composizione di popolazione e di residenti assolutamente diversa. Al momento ci sono circa 2 milioni di abitazioni a Berlino, tra case ed appartamenti. Più della metà di questi sono proprietà di o grandi compagnie, veramente grandissime compagnie, ogni tanto hanno più di 150.000 appartamenti, solo un'azienda, o appunto altri tipi di proprietari privati più piccoli. Ma mi piace riprendere la percentuale di cooperative abitative, che sono le nuove cooperative, quelle più radicali, che sono nate negli ultimi 20 anni. Si parla del 2% dell'abitare a Berlino, quindi non lo 0,003, però comunque una percentuale, diciamo, che va contestualizzata. Quindi andiamo a parlare di un progetto che è assolutamente ancora purtroppo marginale e di una realtà amministrativa che rimane marginale rispetto al mercato immobiliare. Allora, queste sono le 3 dimensioni di cura che mi sono venute in mente rispetto agli spazi che possiamo abitare. C'è di sicuro una cura di sé, tutti noi ci auguriamo di vivere in uno spazio che ci consente di essere una versione di noi che può essere migliorata continuamente verso un progetto, verso un sogno, con gli altri, senza gli altri. Poi c'è una dimensione di cura degli altri e una dimensione ulteriore, più ampia, dell'altro. A me piace anche pensare una cura dell'oltre. Tutto quello che trascende la nostra generazione, che trascende quello che siamo noi adesso e che trascende l'umano prettamente e che va a guardare tutti gli altri esseri viventi che occupano lo spazio con noi. Allora, e queste sono le 3 dimensioni di cui io vi vorrei parlare relativamente a questo progetto, che è quel puntino arancione là. Adesso si vedrà meglio, spero. Sulla riva sud della Sprea, nel distretto di Friedrichshain-Kreuzberg, che è molto, rimane molto centrale all'interno di Berlino. Cosa va detto? Va detto che questo terreno sorge sull'ex tracciato del muro di Berlino e quindi fino agli anni 90 era un'area assolutamente militarizzata, inutilizzabile e degradata, e che poi è stata interessata invece da un piano regolatore da parte della municipalità per una ristrutturazione molto importante, che ha dato adito a una serie di processi necessariamente di gentrificazione. Questo per contestualizzare il fatto che lo sviluppo di questo progetto è iniziato nel 2007, il primo concepimento, e la costruzione è stata completata nel 2015, per un'iniziativa di privati senza sussidi. Al momento questo progetto non è replicabile in questo contesto, semplicemente perché il prezzo del terreno che è stato acquistato all'epoca dal governo federale si è decuplicato al metro quadro, quindi nessuna iniziativa privata può permettersi un costo di questo terreno, ma noi rimaniamo ottimisti perché questa era la missione che ci siamo dati e quindi ci sono un sacco di cose che si possono imparare. Allora, da un punto di vista strutturale, è un progetto che, come si vedeva prima, si affaccia direttamente sulla riva del fiume e qui bisogna immaginarsi che il fiume in realtà scorra qua, quindi è orientato diverso, però questa è nord. Ci sono tre edifici progettati da tre studi di architettura diversi e la struttura è in cemento armato, rivestita poi in pannelli di legno prefabbricato. Da un punto di vista di programma, interessava solo fare vedere come c'è un'intersezione, come abbiamo già visto nei vari progetti di cui abbiamo parlato oggi, di spazio che viene considerato privato, in rosso, spazio che viene considerato della comunità, varie gradazioni di arancione, e sfumature di giallo, che non si vede molto, mi dispiace, per varie gradazioni di spazio pubblico. È importante questo perché la semicorte articolata dai tre edifici rimane uno spazio pubblico, accessibile a tutto il quartiere. E questo è anche un aspetto che io trovo meraviglioso, ma anche potenzialmente problematico, proprio da un punto di vista, come diceva Christian prima, di come varie generazioni e vari gruppi sociali vivono e occupano lo spazio pubblico e lo interpretano. Quindi questo è da un punto di vista di programma, scusate. Per quanto riguarda il programma interno, abbiamo una composizione che prevede sia appartamenti standard che appartamenti cluster. Adesso, gli appartamenti cluster sono quello che è più interessante da un punto di vista di abitare collaborativo, in questo caso sì, ci sono tutti e tre i criteri del co-housing, vediamo per quanto, però per adesso ci sono. Appartamento cluster si intende un macro appartamento organizzato attorno a una cucina centrale, dove vivono tra le 20 e le 25 persone, organizzate poi in unità più piccole. Ognuna di queste unità ha uno studio con bagno e una cucinetta, di solito privata. Ci possiamo tornare dopo. Allora, per quanto riguarda la cura di sé, va fatta una premessa, cioè che io sono in contatto con questo progetto perché noi facciamo parte del programma di co-working all'interno di questa struttura, quindi ho una visione che è molto improntata all'esperienza delle persone che vivono e lavorano lì, ma io personalmente non vivo lì, quindi è esperienza di seconda mano. Quello che posso vedere è che le persone in generale sono molto contente della qualità della vita, ma perché? Perché è data da un'autodeterminazione dell'abitare. Questo era un terreno che non aveva niente prima, è un terreno vuoto e questa iniziativa privata ha permesso loro di costruire la casa da zero. Con una serie di costrizioni, con una serie di compromessi ovviamente, ma da zero, quindi con una forza creativa che va a determinare la qualità della vita alla fine. Legato a questo c'è una negoziazione della prossimità che è continua, nel senso che la qualità della vita dipende necessariamente da quanto sei disposto a condividere con gli altri e non è lo spettro varia moltissimo da persona a persona, anche all'interno dello stesso progetto, non solo da persona a persona, ma anche lungo l'arco della propria vita. Le necessità variano e lo spazio deve essere in grado di riflettere, di rispondere a questi cambiamenti. L'altro aspetto che secondo me è importante per la cura di sé, in questo caso, è ripensare un'ecologia dei bisogni. Nel senso che spessissimo quando si parla di architettura sostenibile, di fare urbanismo in modo sostenibile, si parla di efficienza. Efficienza che spesso è supportata dalle tecnologie. I progetti più radicali dell'abitare collaborativo vanno a interrogarsi in maniera anche abbastanza puntigliosa sulla sufficienza, cioè qual è il minimo di cui tu hai bisogno per vivere, non quello che lo standard, il mercato, la tradizione, il costume ti dicono che tu hai di cui tu hai bisogno, ma di cosa hai veramente bisogno, sia in termini di metri quadri, che di solito sono di meno rispetto alla media, per esempio in Germania si parla di 40 metri quadri, tra i 35 e i 40 metri quadri di spazio privato a persona. Però è possibile vivere con meno ed è possibile vivere collaborativamente con meno e rivoluzionare un settore di mercato ripensando lo spazio. Lo spettro della partecipazione è infinito e problematico, e se volete ne parliamo dopo. Questo è una delle visuali degli appartamenti cluster. Anche qui lo spazio in giallo è lo spazio comune, primo piano e secondo piano. E appunto, se ci sono domande poi ne possiamo parlare dopo, ma qui andrei un po' più veloce. Per quanto riguarda la cura degli altri, allora, si parla sempre dell'indefinibilità del co-housing. La definizione con cui noi lavoriamo è molto, molto più basilare, devo dire. È la condivisione di spazio, tempo e risorse, che si articola in mille modi diversi. Ma di fatto questi appartamenti cluster cosa fanno? Rappresentano delle comunità elettive autogestite, in cui tu scegli le persone con cui vivi con l'idea di condividere una serie di cose con loro, e quindi il concetto di cura deve essere integrato nella progettazione. Per quanto riguarda la questione di genere che hai toccato tu prima, Azzurra, ci sono due elementi che sembrano essere particolarmente d'aiuto rispetto allo scardinamento dei ruoli di genere, cioè la visibilità e un radicale processo democratico da un punto di vista decisionale. Cioè nel momento in cui tu assegni un voto a una persona, una persona un voto, e si ricerca anche il consenso di tutte le persone coinvolte nell'atto decisionale, questo pare che sia una delle dimensioni che aiutano. Da un punto di vista spaziale, se hai una grande cucina che è adiacente a uno spazio dove i bambini possono stare, di solito questo contribuisce a semplificare le cose, a garantire che ci sia un occhio che può essere prestato a chi sta giocando nella stanza accanto. La cura degli altri in questo progetto passa anche dall'apertura al quartiere nella forma di un asilo, una scuola di infanzia, e delle Optionsräume, che sono appunto gli spazi multifunzione, come dal co-working. Questo perché comunque mantiene una dimensione più locale di quartiere. Per quanto riguarda l'apertura alla città, invece abbiamo lo spazio pubblico, che appunto è nella dimensione del cortile, parco, giardino, frutteto tra le corti, e anche lungo il sentiero che passa, che è il lungo fiume, che è transito pubblico, le persone lo usano per andare a lavoro, per tornare a casa, e ci passa davvero tanta gente. Questa è la visuale invece dello spazio di un co-working. In giallo lo spazio multifunzione, dove si tengono sì corsi di yoga, di danza, ma anche conferenze, e invece gli altri spazi sono organizzati in vario modo a seconda di chi ci lavora, soprattutto studi di architettura e poi noi. E questa è la mia foto preferita, quindi l'ho messa quasi alla fine. Cura dell'altro. Allora, e qui mi piace fare un discorso più aperto proprio, perché alla base di questi progetti, specialmente nel momento in cui sono iniziative private di cittadini, c'è un'idea, c'è una visione fortissima, e questo lo dicevate anche voi, Liat e Christian, prima. C'è una visione, c'è un'utopia, no? Del come si può vivere insieme, del come si vuole vivere insieme, che è potentissima, ma che ci deve anche spingere a progettare oltre quello che noi desideriamo adesso e oltre quello che noi pensiamo possa funzionare per le generazioni future. Questo è potenzialmente problematico perché, per esempio, nel momento in cui un progetto si costituisce cooperativa, c'è un apparato, uno scheletro amministrativo che è poi pesantissimo da gestire. Io sto parlando solo del contesto tedesco, quindi non conosco tanto bene quello italiano, però posso immaginare che burocraticamente poi ci siano delle similitudini. le cooperative residenziali in Germania poi diventano lente a muoversi, ci sono dei processi che diventano lunghissimi e si finisce per soffrire un po' di inerzia a volte. E questa è una necessità anche della pubblica amministrazione di ripensare un modello che sia più agile, proprio per anche favorire che questi progetti si possano essere replicati. E l'ultimo pensiero su cui mi piace concludere è che il ruolo dell'architetto in questo è fondamentale, perché che l'architetto poi viva nel progetto, che l'architetto faccia un percorso di accompagnamento o che abbia una visione e poi cerchi i residenti per la propria visione, comunque progettare uno spazio sta di fatto progettando l'umano che andrà a vivere lo spazio, va ad informare il tipo di persona che saremo, e questo è meraviglioso e anche una grande, diciamo, è un compito non indifferente. Grazie. Grazie. Bello. Poi in realtà non c'erano moltissime immagini degli appartamenti, degli interni. È bellissimo, è veramente molto bello, è quasi commovente. Sì, infatti, è un po' troppo che non si va. Allora, io ho varie cose. Intanto una cosa, a Bologna si stanno muovendo delle cose. Ah sì, c'eri l'altro giorno. Mi è sembrato molto interessante che Emily Clancy, che è l'assessora alla casa, l'altro giorno quando abbiamo organizzato questo incontro sull'accessibilità, non a caso, diciamo che tra le azioni che la pubblica amministrazione sta mettendo in campo per rispondere, diciamo, a questo bisogno, ci sono vari, se non sbaglio, 4 o forse addirittura 5 progetti di co-housing pubblici che stanno su cui stanno lavorando e che sono sulla via, diciamo, della realizzazione, con diversi, diciamo, target. E mi sembra molto interessante, perché nei fatti sul piatto non c'è soltanto, diciamo, l'idea della costruzione di una comunità e del vivere insieme, di essere tutti felici, ma c'è anche una questione proprio di accessibilità, appunto, alla casa, perché nei fatti tutto questo interesse da parte nostra non nasce soltanto rispetto alla questione di genere, a tutto ciò che è stato detto prima. C'è anche, come dire, una questione legata, diciamo, al tentativo anche di smuovere alcune dinamiche capitaliste in cui ci siamo incistati, no? Cioè, nei fatti, le case oggi e il modo di vivere che abbiamo producono una quantità di spreco folle, che è uno spreco non soltanto di oggetti, ma anche di tempo, appunto, no? Per cui sono abbastanza convinta che appunto questo tipo di dibattito, questo tipo di visioni, di immaginari possano in qualche modo provare a immaginare qualcosa che risponde in maniera diversa, no? Che restituisce, diciamo, una possibilità diversa, che anche un po' mette in discussione, no? Questa abitudine a semplicemente comprarsi le cose, non so, per esempio la butto lì, non c'entra niente, ma mia sorella sta per avere il primo figlio e nei fatti sta comprando tutti quegli oggetti inutili che comprerà per avere un figlio che poi sarà l'unico, perché è pure vecchia, per cui, cioè, che una culla che userà per 6 mesi, che poi resterà lì, no? E poi il cuscino per dormire perché c'è il pancione, che poi resterà lì, e c'è questa sovrapproduzione delirante di oggettistica che tutti comprano nuovi o al massimo usati, ma nei fatti hanno un ciclo di vita brevissimo, no? E lì secondo me c'è proprio l'emblema in qualche modo. Però sembra che non c'entri niente, ma in realtà è un po' tutto lo stesso discorso, nel senso che siamo un po' qui per discutere di questa cosa. Una cosa interessantissima di Spreefeld, che è passata un po' così, l'hai detta un po' così, ma questa cosa che c'è un asilo, sì, al suo interno. Nei 40 co-housing italiani c'è qualcuno che ha un asilo? Perché questa è una cosa bellissima, e lì anche nelle nostre ricerche storiche, soprattutto appunto sulle esperienze svedesi, nordiche, il grande cambiamento, diciamo, tra le prime sperimentazioni arriva quando compare un asilo all'interno di questi edifici residenziali collettivi, perché è lì che in qualche modo viene rappresentato definitivamente un supporto reale. Cioè, a volte venivano pensati degli edifici di abitare collettivo dove però non erano ammessi bambini, per esempio, o comunque non c'era una condizione tale per cui questi bambini poi potessero esserci, e quindi finivano per viverci gli intellettuali oppure le persone single che trovavano. E invece all'arrivo dell'asilo cambia tutto, no? E quello mi sembra una cosa molto interessante, anche perché mette a tema la relazione tra il co-housing e il vicinato e la città, appunto, no? E poi volevo dire, questo chiedo a te, quando ci facevi vedere le immagini su Big, e soprattutto quando lo stavate realizzando nella prima fase, avete fatto una serie di interventi intorno, avete dipinto insomma, delle parti del quartiere, gli archi della ferrovia, eccetera. E lì subito mi si è accesa una lampadina un po' angoscia, nel senso che a Milano c'è un po' questa tendenza che qualunque cosa positiva avvenga in periferia, immediatamente il segnale dell'arrivo della gentrificazione. Voi avete mai avuto questo tipo di timore? Cioè che un progetto di rigenerazione, perché è molto urbano il vostro progetto, potesse avere anche questo tipo di impatto? Questa cosa avviene oltre Big, nel senso, vabbè, noi siamo anche, confiniamo con Nolo, e parlando con le persone anziane di Greco, quando dici Nolo, loro dicono se l'è. Però effettivamente Nolo è un esempio molto vicino e anche per certi versi interessante. E a Big quello che cerchiamo di fare è la rigenerazione urbana, nel senso che le arcate che vedete, perché per noi sono appunto un panorama quotidiano, oggi sono vissute in modo abusivo e sono come pezzi dimenticati di città, bui, pericolosi, brutti. E quindi l'idea è di portarci delle funzioni sociali, e il più delle volte vorremmo che fossero pure gratuite, perché il quartiere ha bisogno di spazi sociali e gratuiti. Quindi io non so se questa... Poi è chiaro che allora diventa più bello vivere a Greco e magari costano di più le case, ma le case costano già di più, attorno le case costano tanto. Più che altro è preservare e garantire che la rigenerazione urbana non vada solo in quella direzione, ma anche nella qualità di vita di chiunque, a prescindere da quanto paga il metro quadro, ok? E poi rimane anche questa cosa specifica di questo paese, che per cui insomma chi arriva ad abitare nuovo a Greco insomma si sente come uno straniero, e quindi anche tutto il nostro lavoro che vorremmo fare da ultimi arrivati sulla storia del quartiere è anche per cambiare un po' questa logica, per cui che sia comunque un quartiere dell'accoglienza piuttosto che della protezione dell'identità grechese, ecco. E noi siamo un po' un elemento che vorrebbe fare un po' da ponte fra queste, fra questi sviluppi, ecco. Poi su. Certo. So. Naturalmente sentitevi liberi. Sì, grazie. Allora, il rapporto con il pubblico in Italia c'è in modo limitato, nel senso che appunto Bologna è l'unica città, ad esempio, che ha voluto e ha costruito un co-housing totalmente gestito dal pubblico, per cui l'assegnazione delle case avviene attraverso la municipalità, ok? Con un contratto particolare, eccetera. Possiamo parlare di servizio, se vuoi, come nel vostro caso, no? Per cui un servizio abitativo di co-housing. Il comune di Vimercate, non lontano da qui, ha dato un terreno a un prezzo calmierato a un gruppo di abitanti attraverso un bando, chiedendo dei progetti di co-housing con alto impatto anche sul quartiere, per cui lì c'è stata una collaborazione pubblico-privato in quel senso. Milano, il comune di Milano ha inserito la parola co-housing nel PGT, per cui in realtà è riconosciuto in qualche modo, e ad esempio ci sono degli sconti sugli oneri di urbanizzazione per il co-housing, sugli spazi comuni, eccetera. Non entro in tecnico, ma la verità è che la maggioranza sono gruppi dal basso, diciamo, che si incontrano, si costituiscono spesso in cooperative, su questo poi faccio un cenno, e riescono in autonomia ad arrivare alla loro abitazione, però a prezzi di mercato, per cui dal momento che non c'è una collaborazione uno sì, riesce, ce la fa, deve essere abbastanza lungimirante e avere uno spirito imprenditoriale, però i prezzi sono prezzi di mercato, per cui non è facilissimo. Cioè, se guardo i vostri visi, cioè, penso, non è, uno tra l'altro magari si mette adesso e poi la casa ce l'ha tra 6 anni, tra 7 anni, se va bene, per cui è anche un processo un po' lungo dove la nostra vita cambia tanto in quegli anni lì, no? Per cui manca sicuramente, ed è bellissimo l'esempio di Bologna, perché forse è la città che più si spinge in quella direzione, di sapere che qualcuno si muove dal pubblico. Sarebbe altrettanto bello pensare al privato. Se ci fossero più privati, imprenditori immobiliari, che però propongono forme vere di co-housing, perché qualcuno che usa la parola co-housing così, purtroppo poi a Milano siamo veramente scottati da un'esperienza brutta in questo termine, però sarebbe anche questo interessante, perché gli attori privati potrebbero cominciare a usare di più e a progettare qualcosa per la quale tra l'altro c'è una domanda, perché in Italia le ricerche, cioè una ricerca fatta pochi anni fa, che dimostra un interesse altissimo al co-housing. Per cui sarebbe interessante anche l'intervento, sì, dei privati. Una parola sulle cooperative. Cooperative in Italia in realtà son forti e hanno una storia molto molto importante, tanto vero che la Germania, così come la Spagna, vengono qui ad imparare la forma cooperativa, perché è nata qui proprio come una forma di autosostegno per riuscire a costruire una casa a prezzi di costruzione e non di più, ok? Per le persone, per le comunità, ok? E poi oggi proprietà divisa, indivisa, forme diverse. Forse quello che ci manca, ma comincia a essere, perché base Gaia, che ho fatto vedere prima, che è un co-housing, sono una cooperativa. E sono quelle che tu hai chiamato nuove cooperative, no? Per cui forse manca quel pezzettino di nuova cooperativa. Quando io sono andata a Berlino, che era il 2007, era quel momento lì del spazio vuoto, terreni che costano poco, e la gente cominciava a dire: come facciamo ad appropriarci di questo? E mi ricordo anche le conversazioni con Michael, che diceva: per noi è nuova questa faccenda qua di unirsi per costruire, ma in realtà spazi comuni poi non ci pensiamo, no? E noi abbiamo cominciato a parlarne, però in realtà Italia ha una storia molto importante sulla cooperativa. È relativamente facile il processo di cooperativa, perché è conosciuto, riconosciuto, e dunque un processo facile, però è vecchio, perché questa storia lo rende anche pesante, lo rende difficile da innovarsi, rende difficile queste forme di nuova cooperativa. Però io credo onestamente che una chiave è questa, cioè le cooperative si muovono anche a Milano e trovano forme diverse, ma sono veramente molto pesanti da muovere. Volevo chiedere a Giulia, collegandosi al tema delle cooperative, sì, se il modello qui tedesco, scusa, del Baugruppe, soprattutto se quello del progetto era un Baugruppe, quello che è presentato, e poi diciamo un documento su aspetti positivi e negativi e come possa essere magari applicato in Italia per innovare nel settore housing. Ok, grazie. Ti chiami? Luca, grazie. Allora, i Baugruppe sono associazioni di costruzione, associazioni di residenti, che appunto letteralmente associazioni di costruzione. Allora, alcuni gruppi di questi poi si costituiscono anche cooperativa, ma non c'è la coincidenza necessariamente. Adesso, questo progetto non sono un Baugruppe, sono proprio una EG, sono una Genossenschaft, sono una cooperativa. Hanno un'associazione di residenti, poi, ma non sono un Baugruppe. C'è anche da dire che ci sono dei Baugruppe assolutamente storici, anche a Berlino, cioè che sono attivi già da molti decenni, ma come anche cooperative che hanno una storia centenaria in alcuni casi. La domanda che tu poni sulla trasferibilità di questi modelli è abbastanza cruciale. Personalmente io non penso che le strutture amministrative purtroppo si possano prendere e trapiantare, perché di solito c'è alla base un'analisi di una domanda che deve essere fatta in maniera molto contestuale. Alcune cose a un'amministrazione locale di stampo tedesco sembrano assolutamente normali e di prassi, ma forse più che trasferirne di modelli bisognerebbe svecchiare quello che abbiamo, per esempio, in Italia. C'è anche da dire che c'è un'elasticità solo relativa comunque anche all'interno di questi modelli. È una risposta non soddisfacente neanche per noi, mi dispiace. Ok, due cose mi vengono in mente che parzialmente per esempio il Comune di Berlino cerca di fare o sta cercando di fare, che secondo me possono essere interessanti a livello più generale. Quello che hai detto tu, per esempio sull'accesso all'informazione, è un aspetto assolutamente fondamentale, nel senso che iniziative di privati cittadini che si riuniscono molto spesso fanno fatica a raccapezzarci nel vasto panorama di leggi che esistono, non esistono, qual è la struttura migliore. Quindi da un punto di vista amministrativo sarebbe importante offrire un go-to point, un ufficio, uno sportello, grazie, uno sportello che fa proprio questo, cioè che fa formazione anche sul come si possono avviare queste iniziative, sul cosa serve. Dall'altro lato invece, per quanto riguarda il principio del concept Verfahren, che a Berlino si occupa di assegnare gli appezzamenti di terreno del comune sulla base del valore anche sociale del progetto, quindi non solo al migliore offerente sul valore d'asta. Tante iniziative private non riescono poi ad accedere alle fasi successive di questo processo. Perché? Perché il tempo che va speso nello sviluppare questo progetto da un punto di vista professionale, coinvolgendo i professionisti giusti, rendendolo realistico e credibile, è immenso e spessissimo non pagato. Quindi hai diversi gruppi di cittadini che partecipano a questi bandi cercando di conquistare, una parola orrenda, però di vedersi assegnato un pezzo di terreno, che però non riescono ad accedere a fasi successive del progetto perché economicamente non è sostenibile elaborare un progetto verosimile se è tutto lavoro che fai esattamente. Purtroppo non c'è un meccanismo che favorisca questo, purtroppo. Però questa secondo me è una direzione che va che ha come obiettivo quella di rafforzare le iniziative cittadine. Devi mettere le persone nelle condizioni di elaborare il proprio progetto, non dando per scontato che siano tutti architetti, ingegneri o strutturisti in grado di crearlo. Sì, abbiamo fatto qualche anno fa dei tavoli proprio su questo tema per capire dove la pubblica amministrazione poteva essere di aiuto o non di ostacolo ai progetti di co-housing, no? Perché c'è anche questo, perché se tu chiedi agli abitanti di Base Gaia, loro per tutti gli anni dicevano: ma almeno non ostacolate, cioè, va bene, non dateci niente, però deve essere un po' più facile, no? Poi la pubblica amministrazione giustamente è molto attenta, perché ad esempio agevolare, dare degli sconti sugli oneri e sull'altro, lo fai quando questi progetti portano realmente un valore, no? Sociale, ambientale, economico alla città. Se poi appunto un intervento privato del SIA che utilizza il co-housing magari fa anche degli spazi comuni eccetera, però poi crea un'abitazione di lusso non aperta al quartiere, dove non offre spazi accessibili economicamente alle persone eccetera eccetera, ma si chiama co-housing perché ha gli spazi comuni e dunque il comune addirittura deve dare lo sconto per poi andare a vivere, no? Cioè, ci sono questi rischi per la pubblica amministrazione, per cui l'esempio di Bologna è interessante, perché loro ad esempio hanno definito rispetto all'apertura al pubblico un criterio, per cui prima di avere delle agevolazioni ci sono tutta una serie di criteri alle quali uno deve rispondere. Questo ad esempio per Milano non è successo, per cui la parola co-housing si trova nel regolamento ma non si capisce cosa sia, tranne per alcune cose. Per cui è importantissimo agevolare, diciamo, questo lavoro. La pubblica amministrazione deve crederci, perché altrimenti dice: vabbè, vuoi farti la tua bella casa con gli spazi comuni? Bene, fatti tuoi, fatti la casa. Però se riusciamo a lavorare nell'ottica anche di dimostrare l'impatto di queste abitazioni, no? E di imparare, per cui se sono laboratori dobbiamo andare ad imparare un po' cosa succede, dobbiamo andare a tirare fuori sia le cose negative sia le cose positive, perché poi tra noi, quando non siamo davanti al pubblico, ci diciamo anche tutte le difficoltà. Sto scherzando, le diciamo anche al pubblico, però non è che sia tutto facile, ed è importante, magari forse anche ora su Milano, di andare a vedere le esperienze esistenti, di fare un attimo una mappatura dei benefici, della criticità, tornare alla pubblica amministrazione e dire: questo potrebbe essere una cosa positiva, questo invece lasciamo perdere. Ecco, ho lanciato. No, mi viene da dire una cosa, nel senso che per l'ottimismo, per qualcosa di ottimismo. Perché nell'esperienza di Big l'ho fatto vedere nel disegno, ma non l'ho sottolineato, cioè è l'unione dei diversi attori che trova la soluzione, nel senso che adesso noi diciamo: è la pubblica amministrazione che deve fare, oppure è il privato che deve fare. In realtà, se uno e l'altro non trovano una via di collaborazione, è difficile comunque. Il privato è molto importante. Io credo che io ho sentito dire queste parole e le ripeto spesso dal ex direttore di Banca Prossima, che poi è tornata a essere Banca Intesa, Marco Morganti. Lui diceva: le case non si vendono più se dite che sono in classe 3A più 5 meno, perché quello ormai è dato per scontato. Voi dovete vendere le case con un'anima, e le case hanno un'anima quando c'è un progetto dietro che non è solo architettonico ma è anche sociale. Chiaramente parlava da referente di una banca che finanzia il terzo settore, però lui chiamava anche il terzo settore a dire: disegnate progetti che rispondano ai bisogni di oggi. I bisogni di oggi sono quelli che ci stiamo raccontando, no? Gli anziani, i giovani. Quindi più progetti si riescono a disegnare così, più i privati saranno i primi magari a rispondere, e loro avranno le leve per muovere anche l'amministrazione. Certo, ci immaginiamo sempre un'amministrazione illuminata che spinga il privato, ma non è neanche detto che questo succeda. L'esperienza di Big ha dimostrato proprio il contrario, cioè noi abbiamo convinto abbastanza facilmente il privato, e poi abbiamo dovuto confrontarci con tutti i settori per arrivare a far sì che una convenzione fosse cambiata, neanche scritta da capo, cambiata. Vuol dire che anche all'interno dell'amministrazione ci sono degli ostacoli, però forti della relazione col privato e anche forti di banche che ci avrebbero supportato, quindi fondazioni e banche che ci hanno supportato, l'unione ha fatto davvero la forza. Bisognerebbe ricreare ogni volta queste condizioni, magari ogni volta partendo dal soggetto differente, però facendo sempre tutti il loro pezzettino. Peraltro la lavanderia è fondamentale, questa cosa. Noi quando siamo andati a visitare Base Gaia con il gruppo dei ragazzi, quando abbiamo visto la loro lavanderia, noi abbiamo detto: anche la nostra è di tutto rispetto, ed è quello davvero una delle forme per cui il co-housing permette di risparmiare, ed è davvero un momento di socialità pazzesco. Nel bene e nel male, perché noi abbiamo anche degli scontri epocali in lavanderia. Però io, se potessi mettere il bollino di co-housing, lo metterei sulla lavanderia. Se hanno la lavanderia condivisa, co-housing, se no no. Sì, l'housing sociale in realtà prende già molto dalle esperienze di co-housing, nel senso che applica l'idea della condivisione di spazi, di attività, ha degli interventi di grande misura, perché insomma è importante la quantità di appartamenti, e fa uso esattamente della partnership pubblico-privato, per cui le esperienze di Milano, quasi tutte, hanno un terreno dato dal comune, terreno pubblico, e poi invece attraverso un fondo immobiliare sociale riescono ad implementare un progetto che ha elementi di mix sociale, negozi o attività sociali nei piani terra e così via. E sono esperienze molto innovative a livello internazionale e molto importanti per Milano. Riescono a mantenere i costi relativamente bassi, perché comunque si parla ancora di una fascia grigia, per cui non sono bassissimi, okay? non sono case popolari, però si riesce così a offrire una soluzione per diverse fasce di età. Sono in c'è piano per diversi edifici nuovi di housing sociale, sono da tenere ad occhio, perché poi c'è un'assegnazione di queste case. Per creare il mix sociale c'è sempre un limite anche all'età, eccetera, però sono esperienze fondamentali su Milano, direi. Chiudo anch'io. No, intanto volevo ringraziarvi perché è stato molto bello, e in realtà io ne avrei altre di cose, ma non vorrei tirarla troppo per le lunghe. Quindi vi ringrazio moltissimo per tutto, per i vostri contributi. Vorrei ringraziare anche i ragazzi che ci ospitano. In realtà sono proprio contenta che siamo qui, perché scommetto che molti di voi non sapevano che questo posto esisteva, perché è anche abbastanza neonato ed è talmente bello che invece mi sembrava bello che lo conosceste, sembrava una buona occasione, e sono contenta, mi sembra che sia stato carino. Passo la parola a Beatrice e grazie ancora a tutti. Sì, no, grazie. Grazie mille, penso sia stato molto utile, molto bello, anche insomma in un clima che penso sia... quello che volevamo, no? Rispetto al festival, di discutere anche alcuni di questi temi. Ringrazio diversi sponsor del nostro festival, ringrazio Fondazione Cariplo, plurivolte nominata perché spesso è dietro a tantissime delle attività culturali che succedono in città, anche grazie a loro c'è il festival. Per chi non fosse architetto e magari non conosce le attività di Ordine Fondazione, www.ordinearchitetti.it, ma no, lo dico perché tra le tantissimi stimoli, una delle attività che facciamo periodicamente è visitare dei luoghi interessanti, non noti, ma di qualità. Abbiamo fatto una bellissima passeggiata nel Gallaratese sui temi dell'abitare, ne facciamo spesso di queste passeggiate, quindi per chi non le conosce ma ha curiosità per lo spazio costruito, per lo spazio pubblico, per gli edifici di qualità, tenete d'occhio, se non siete iscritti alla nostra newsletter, perché è un modo per continuare a, diciamo, discutere di architettura, a goderla, a vedere quella bella e di qualità. E grazie mille di essere stati con noi. Ciao.